Il sabato del villaggio. 17:06 ancora in diretta col sabato del villaggio. Ringrazio Cristina per questo suo messaggio, perché ha scritto: chi non apprezza la leggerezza non riflette abbastanza sulla pesantezza. È vero, noi adoriamo essere leggeri nel sabato del villaggio, parlando un po' delle belle cose della vita. Ora però è il momento di riflettere su una settimana di attualità con RadioTube. YouTube di Marta Cagnola e Daniele Bellasio. Eccoci pronti per la terza ora, c'è Daniele Bellasio davanti a me in studio. Ciao Daniele. Prontissimi, confermo che Billions è molto bella. Ah, che hai sentito la diretta con Gianmaria Tammaro, che è il nostro Billions super esperto. Cioè uno dei nostri super. Che io adoro. Fantastico. Allora, i nostri account di Twitter: chiocciola di Bellasio, chiocciola Marta Cagnola. Certo. 349-238-6666 per i WhatsApp e per gli SMS. Daniele, io ho detto così: leggerezza, tanta leggerezza nel sabato del villaggio, perché sono i nostri liberi consigli per il fine settimana. In RadioTube c'è di tutto, ci saranno notizie lievi, leggere, e ci saranno anche notizie su cui riflettere. Partiamo queste? No, perché questa settimana è successo qualcosa di pazzesco, impensabile. Ogni volta c'è un limite che viene superato nel racconto fatto attraverso i social network, e ogni volta questo limite ci pone nuovi interrogativi e qualche paura, qualche angoscia. Come sapete tutti, probabilmente è stato mandato in onda un video che ha scioccato, sì, e che ha spostato davvero l'asticella. Un Facebook Live. Abbiamo un breve audio. Please don't tell me my boyfriend just went like that. Keep your hands where they are, please. Yes, I will, sir. I'll keep my hands where they are. Please don't tell me this, Lord. Please, Jesus, don't tell me that he's gone. Sembra una scena di un film poliziesco. Sì. La ragazza che Diamond Reynolds nel Minnesota, e la ragazza sta filmando un poliziotto che, dopo aver sparato al suo fidanzato Philando Castile, continua in qualche modo a dire delle cose ed è freddissima nel racconto di quello che sta dicendo. Poi a un certo punto si rende conto del fatto che probabilmente il suo fidanzato sta morendo. Tutto questo sta avvenendo in diretta. Sì. Noi vediamo la pistola. E tutto questo è stato visto in tutto il mondo, e tutto questo ha, come viene raccontato oggi sui giornali, cambiato nuovamente la prospettiva di come i social network sono un po' il racconto della nostra vita quotidiana. Oggi su Repubblica, Marta, avrai visto, Mario Calabresi, il direttore di Repubblica, racconta la verità in diretta sui social e dice che il tempo per capire, per riflettere, per decidere cosa fare si è ridotto a zero. Siamo entrati ufficialmente nel tempo della diretta. Sappiamo che i manifestanti di Dallas, perché poi dopo ci sono state le proteste, certo, anche in qualche modo raccontate anche lì attraverso i social, circondati dai poliziotti, poi divenuti bersagli, erano scesi in piazza per protestare, proprio spinti da quei video. E sappiamo che anche la mattanza di quegli agenti è stata trasmessa in diretta dallo smartphone di un passante. Sappiamo che ognuno di noi può essere spettatore testimone e che sta saltando ogni mediazione. E se salta ogni mediazione, racconta Mario Calabresi nel seguito dell'articolo, salta appunto il tempo di riflettere, di capire i contesti, di lasciar decantare emozioni che a volte servono più a fraintendere che a intendere, o a complicare la comprensione di una vicenda piuttosto che a renderla più semplice. Cambiano i media, cambia anche la nostra psicologia, perché tu stesso ieri ne parlavamo, dicevi chissà qual è il meccanismo che spinge una persona, esatto, a tirare fuori uno smartphone e filmare. Sì, perché come racconta Massimo Gramellini, questa volta sulla prima pagina della Stampa, c'è un altro elemento che è totalmente nuovo. Il fatto che la fidanzata di Philando Castile è freddissima mentre riprende, usa la ripresa come, forse come forma di autodifesa mentre sta accadendo il fatto, e riesce a restare freddissima mentre lo fa, quasi lucida, dice Gramellini, che poi aggiunge però che tra qualche tempo ci renderemmo conto meglio, ma si è trattato di qualcosa di rivoluzionario, qualcosa di intimamente legato allo stato d'animo dei neri d'America, che ormai escono di casa con lo spirito vigile di chi va in trincea, però anche alla trasformazione avvenuta in noi umani da quando ai quattro arti ereditati dagli avi abbiamo aggiunto la protesi del telefonino, che diventa come contemporaneamente qualcosa che ci protegge rispetto a quello che raccontiamo, ma nello stesso tempo ci induce a raccontare tutto, bene, male. Lo capiremo. Per ora siamo travolti da questa, sia da questa notizia che da questo cambiamento antropologico. Antropologico per di più per i fatti di Dallas, i video che ogni sito potevano trasmettere in contemporanea erano, il New York Times credo sia arrivato ad avere 16 video tra dirette e più o meno dirette di quello che stava accadendo nelle manifestazioni, per esempio. Holy shit. Holy shit. E non so come dire, gli audio di questi video sono stranianti perché davvero noi abbiamo visto tutto questo per anni nei film, cioè è esattamente quello che noi abbiamo visto semplicemente come messa in scena e che invece appare ai nostri occhi nella sua verità, testimoniato dalla tecnologia, dal fatto che da un anno, da più o meno, noi abbiamo dei mezzi che ci permettono di mandare dei video in diretta. Sì, e poi soprattutto diventiamo noi stessi possibili protagonisti e possibili registi di quello che stava accadendo, perché tutta la storia recente degli ultimi anni in politica estera, politica interna è stata legata dai video. Dall'11 settembre in poi noi abbiamo visto di tutto. Dalla guerra alla pace, cose belle, cose brutte, le rivoluzioni in Medio Oriente. Non era ancora mai accaduto che noi fossimo contemporaneamente o potessimo essere contemporaneamente registi e protagonisti di fatti di cronaca. Con l'avvento della diretta invece accade anche questo, quindi il social network che prima veniva visto come un semplice racconto della realtà che ci stava attorno diventa anche uno strumento potentissimo del racconto che io stesso posso fare in presa diretta. Questo peraltro aprirebbe discorsi, diciamo, lunghissimi anche su e allora quale diventa il ruolo nostro, mio e tuo, Marta? Noi qui che raccontiamo e parliamo, oppure di un... purtroppo secondo me è il momento in cui noi abbiamo solo delle domande, non ecco, abbiamo neanche forse una risposta. Esatto, brava. Dobbiamo correre alla, diciamo, alla scoperta delle domande più giuste, così almeno riusciamo poi a mettere delle priorità nelle risposte che probabilmente altri, perché non so se noi siamo in grado di darle o saremo in grado di darle, magari i nostri figli riusciranno a dare. Sì, devo dire che anche i media americani si stanno facendo domande. Io ti mandavo questa mattina un servizio, sì, che aveva dedicato a questo argomento Variety, quindi quella che noi chiamiamo sempre, sì, la, esatto, Bibbia dello spettacolo. Addirittura i mezzi che si occupano di spettacolo si fanno delle domande perché è un cambiamento epocale nell'informazione che veramente ci può lasciare solo delle domande. Quindi per questa volta... e credo a lungo di risposte non le potremo dare. Sì, apriamo una sorta di Facebook Live di dibattito su questo e sul punto e poi si vedrà, anche perché tanto fermare non si può, perché no, certo, è c'è esattamente il dibattito etico che su sta che cosa si può però trasmettere o no, ma magari il New York Times non trasmette quel video lì, ma il lettore del New York Times quel video lì lo trova comunque. E poi la diretta è inarrestabile. Esatto. La diretta è assolutamente inarrestabile. Allora, avremo anche modo di parlare di argomenti più lievi, più leggeri, più gioiosi. Come tra sono poco i social, avremo anche modo per prendere un po' in giro Daniele Bellasio. Come se fosse una cosa nuova. Lo sono faremo tre tra poco, anni però. Ormai, quasi tre stagioni che lo fai tu con Cristian. Ma tra poco, a ragion veduta. Adesso sì, diamo la linea al traffico, poi scoprirete perché. Radio Tube. Allora, ancora torniamo con un po' di leggerezza. Tu avevi fatto una promessa e ogni promessa è Rovazzi. Debito. Allora, questa settimana in tanti si sono accorti di Rovazzi sui giornali, l'hanno intervistato, ma noi l'abbiamo già avuto ospite. Il fenomeno di Andiamo Grazie a comandare. E a Rocco, perché sei esatto, io... tuo figlio che lo conosceva molto meglio di me, di te messi insieme. Però tu a Rovazzi, sì, che non è un cantante, ma un... lo dice lui, io non sono un cantante, ma un autore di video, sì, un creator, come si dice adesso, cioè, tu hai fatto una promessa. Sì. Quale? Che sono diventato un vlogger. Un vlogger con la V, non blogger. Un vlogger, cioè... Mamma, un vlogger è uguale a un blogger, ma invece di scrivere fa dei video. Allora, Dovrebbero essere dei video belli, dovrebbero, dico. Ma noi mostriamo il vlog di Daniele Bellasio. Dunque, buongiorno. Ieri a RadioTube, su Radio 24, ho avuto la fortuna, me l'ha ricordato mio figlio Rocco, che è stata proprio una fortuna, di intervistare Fabio Rovazzi. E Fabio Rovazzi, che è una persona molto interessante, un ragazzo di 22 anni, mi ha più o meno imposto, suggerito, insomma mi ha ordinato di tentare di fare un vlog. Però vai avanti per 10 minuti parlando con la... cioè è il primo tentativo, è una specie di... Intanto senti che ritmo, senti che ritmo, senti pa scoppiettante, il secondo l'ho fatto di 5. Ah ok, solo che poi sono, sì. Christian Goldoni, sì, che stava ridendo adesso con Gian, sì, detto Matteo in regia, sì. Praticamente lui mi ha detto che bisognerebbe anche fare qualcosa di creativo, che so, un montaggino, due musiche. Ma non solo, puoi anche, non so, dire faccio un vlog di me che vado a fare la spesa. Ma lo dico, no, ma io lo dico. Sono lì seduto davanti, tranquillo, a casa della mamma, peraltro. Si vede dietro un telescopio e qualche conchiglio. Sai quelle conchiglie degli anni 80, sì, che prendevi nei viaggi? Sì. Che tristissime. Vabbè, io ho iniziato così, ma mica si nasce imparati, No, no, cioè, ma certo. Quindi, è appena iniziata la tua carriera di vlogger. È iniziata la mia carriera. Ho promesso il milione di visualizzazioni, visto che Fabio ha superato, credo, i 30 milioni. Sì. Io ho promesso, mi pongo come obiettivo il milione entro l'anno. Di okay, visualizzazione, okay, mettendo tutte assieme. Ok, okay. Credo non è poco, Non è poco, credo di essere a 800, 900, non pochissime comunque, okay, anche se 10 minuti. Quindi vediamo. Perfetto. Datemi, anzi io invito, datemi, suggeritemi storie, vorrei raccontare storie così di passione e di talento, di chi riesce a mettere assieme hobby e professionalità. Sì, però devi fare un diario tuo, non è che devi, cioè devi... Ma io voglio raccontare gli altri, mi piace raccontare. Ah, già, ha già cambiato. Vabbè, tu cioè, sei, io... cioè, sei più creator, non tanto vlogger. C'è differenza, quindi. Sì. Però tipo recensioni video, tipo racconti, che ne so. Vabbè. Potrei anche raccontare la tua di storia di passione e di talento. Quella, la mia passione per il calcio, la mia passione per gli europei? Va bene, vuoi voltare pagina, sì, da brava conduttrice. Dai, sai allora... che non avevamo ancora chiamato il nostro vincitore di premi? Quanti premi ha vinto quest'anno? Ma li ha vinti Oscar tutti, compreso. Li ha vinti tutti, li ha vinti tutti. E chiamiamolo allora. Lo chiamiamo? Lo chiamiamo subito in causa? Abbiamo con noi collegato, tornato fresco da Olimpia? No. No, questa volta è tornato dagli europei. Per sì, le Olimpiadi parte tra un po'. Dario Ricci, ciao Dario. Ciao. Ciao ragazzi, ben ritrovati. Allora è tornato, cammina quasi bene perché sì, lui ha avuto un piccolo infortunio prima di partire. Però vabbè, un piccolo infortunio, ce superato, l'ha fatta, le ha portate a casa da vincitore. Cioè lui è arrivato, lui vincitore degli europei. Com'è stato vederli tornare in TV adesso? Ma devo dire con spirito sereno, sarà che diciamo l'età fa crescere anche l'esperienza e quindi diciamo... C'è mancato quel rigorino che avrebbe prolungato l'esperienza degli azzurri, anche la mia, ma insomma penso che comunque, ecco, sicuramente abbiamo vinto anche gli europei come Radio 24, tra l'altro poi domani sera c'è anche lo speciale, c'è finale, lo specialone domani sera dalle 21, quindi sarà un'altra chiusura col botto, chiunque vinca. E devo dire, sì, vederli in televisione fa un altro effetto, ma è bello lo stesso. Sono particolarmente arrabbiato, devo dire. Oh. Perché non sopporto questi francesi che hanno copiato il festeggiamento degli islandesi. Bravo! Oh, allora ce l'abbiamo, bravo, ce l'abbiamo, Dario, ragazzi. Il mio mito. Mostriamo il video. Dario, tiro subito la bomba, ma bravo, veramente, ecco, guardate, Dario, ragazzi, mostriamo il video alla radio, mostriamolo. No. Ma questi sono i francesi o gli islandesi? Questi sono i francesi, fan più casino. E invece abbiamo anche quello degli islandesi, ce l'abbiamo? senti l'eleganza islandese. Capisci, per gli islandesi è quasi sacrale, mistico. Per i francesi sembrava una parodietta, una specie di mannaggia. Grande Dario. Il subito... geyser sound si chiama, il geyser, il suono del geyser. Ci parlano sempre dei formaggi, i vini, le cose, inventatevi pure un festeggiamento vostro. Hanno provato a rubarci il popopò. Sì. Il geyser sound, vabbè, francesi, una roba vostra. Una cosa vostra, insomma, non è difficile. Se la Gioconda pure non è vostra, una cosa vostra. Senti, ma allora scusa, scarica subito l'altra bomba. Pro o contro Pellè, il cucchiaio, le cose, Zaza. Cos'è sta roba? Io difendo Zaza, ma non Pellè, non ce la faccio. Zaza li batte così, che devo fare? Ma Pellè non se fa. Ma io li difendo tutte e due, perché... onestamente nel duello psicologico col portiere, no? Tu mettiti dal punto di vista del portiere, quando il portiere salta, fa un po' la scimmia che si distrae, eccetera, eccetera. Anche lì, nel momento in cui prende il gol, dovrebbe essere sbeffeggiato, no? Anche se poi lui chiaramente vive il rigore da una posizione di inferiorità. Lì Pellè ha provato, è nel gioco psicologico, è come un duello all'ok corral. Poi certo, diciamo il vero problema di quel rigore è che e poi ha mancato di un metro e mezzo proprio la porta, il concetto di porta. No? Che l'ha sbagliato, questa, certo. Ecco, diciamo, qualcosa non è andato, nel senso si è mossa la porta, o comunque insomma un metro e mezzo è un po' tanto per mancare il palo. Però ci sta che tra di loro, il problema del rigore, quello lì, anzi, è stato il fatto che poi Neuer, e qui è un po' il dramma di Pellè, dopo ha detto, dice, ma io non me ne sono accorto, che ti dà un po' l'idea, visto quando tu ti avvicini alla festa di compleanno che devi andare da anni perché vuoi invitare a ballare la ragazzina che ti piace, tu vai lì, ti avvicini e questa si gira e si prende la fetta di torta mentre tu proprio o il tuo migliore amico, o il tuo migliore amico, ecco, capito? Allora quello è stato il dramma, che lui, Neuer, non doveva dirla quella frase, che ha detto proprio, dice, ma io non me ne sono accorto, ecco, quello è stato il dramma. A dir la verità, anche io, guardandolo dalla televisione, non me ne ero accorto che c'era stata la provocazione, non... sì, infatti pure l'ho visto poi al replay, perché poi figurati dallo stadio dal vivo non si era percepito, anche se avevamo i monitor, ma lì te lo godi dal vivo, lì per paradosso la TV non vorresti averla, no? Infatti, perché ti piace anche quello che non vedi, il bello dello sport dal vivo è qua divago, ma è proprio quello che non vedi, è quello che non vedi, perché tu stai davanti alla televisione, vedi tutto e quindi già devi fare la fatica di avere un'opinione su tutto, mentre invece fortunatamente dal vivo qualcosa te lo perdi e rimani un pochino a imbagliate degli idee del calcio, che è la cosa più bella. Ma voi domani sera ti fate? Chi ti fate? Ma io... dai Daniele, fammi sentire un po'. Ma no, te chiediamo un pronostico più serio. Come no, non lo so, sono molto indeciso. Io alla fine tenevo per la Germania, perché alla fine mi sembra la squadra che tutto sommato anche stavolta meritasse di più. Però sì, anch'io cioè, tifo un Portogallo pochino proprio Germania. È arrivata quasi per sbaglio in è finale. È per quello, anch'io tifavo un pochino Germania, perché di fronte a Francia-Portogallo, devo dire che il Portogallo, io l'avevo già detto la scorsa settimana, si è qualificato in maniera così. Sì, e poi dal tuo punto di vista il Portogallo è una squadra più faiga, eh? Sì, per CR7, ma non solo, ce ne sono altri due o tre. Non male, anche il nuovo Sanchez. Sì, c'ha non un sono suo, male, perché... non sono. Ma invece... questa cosa che io guardo solo i begli uomini, chissà come si è diffusa questa notizia. Il pronostico di Dario è un pronostico ragionato. No, io pure devo dire, secondo me vincerà la Francia, ma tiferò per il Portogallo proprio per i motivi per cui magari molti non tifano, cioè per CR7, perché non sarà simpatico, non sarà che, tutti dicono non ha fatto niente con la nazionale, intanto poi vai a vedere, ha fatto 3 gol, ha sbagliato un rigore che comunque l'ha tirato, ha fatto un gol di tacco meraviglioso e ha deciso la semifinale con un gol di testa splendido, insomma se questo qua dovesse vincere gli europei da solo, non da solo, ma insomma contro la Francia, padrona di casa, sarebbe davvero un'impresa, e tra l'altro sarebbe un po' una nemesi di quegli europei che nel 2004 perse in casa con un altro Portogallo contro la Grecia, quindi insomma adesso andiamo a ricordarci se la Grecia gli merita una vittoria, per carità, giocava molto peggio di questo Portogallo, insomma mettevano un autobus davanti alla porta e facevano il golletto in contropiede, questi qua almeno un po' ci provano e poi c'è il CR7. Però ragazzi, io vorrei salutarvi con un frammento di un video che mi è piaciuto moltissimo questa settimana. Stai ed è commuovendo. Questo I choose this club Because no. I like as Islam. Yes, no, as I like it. It's close to my football idea. To my football idea. I like talking too much about what we will do. Very good. Action speak louder, louder than words. The cat is on the table. And beh, bellissimo questo video. Tu lo sai che io li difendo. Io il Renzisch, il Globbisch, il Renzisch, Daniele Bellasisch. Che adesso io anche difendo. Il Mazzarisch. Vabbè, ma il Mazzarisch, almeno Renzi ci ha messo una grinta. Cioè, si è visto questo è vero, un questo miglioramento. Questo no? È vero. Questo... Cioè, questo io adesso, con tutto il rispetto per Mazzarri, scusate, vi rubo 20 secondi. Vai. Con tutto il rispetto, ma lui ha detto: io sono 2 anni che sto fermo, studio calcio, mi preparo per l'Inghilterra, ok? Cioè, io dopo 2 anni di uno che sta fermo e studia, no. Non aspettavo qualcosa un filo di più. Mi aspettavo. Però guarda che più. Lui tra anche l'altro... in italiano parla con flemma, no, capito? No. Sì, con Flemish. Però tra l'altro avete letto forse oggi Gene Gnocchi, straordinario, la Gazzetta dello Sport, che ha detto, dice, dopo aver sentito il video in inglese di Mazzarri, l'Inghilterra ha deciso di uscire anche dalla lingua inglese. Ragazzi, è bellissimo. Auguri, dobbiamo salutarci, bocca al lupo a Mazzarri, e un abbraccio pausa. A Dario, grande Dario, a presto, un bacio grandissimo, grazie. Al nostro Dario Ricci. Domani sera lo speciale, et Marta Cagnola, e domani sera lo speciale, sì, europeo. E vicino al tastino, lo dico per uno lo chiede, c'è il Facebook Live di fianco a foto e a video, basta schiacciare Facebook Live e si parte con la diretta, lo chiede un telespettatore, un radioascoltatore. A tra poco, pausa. Ciao, dopo. Roma-Napoli, in auto con un'amica, io, lei e il sistema digital radio. Accendiamo la radio? Hai detto radio? Te la faccio ascoltare in digital. Cioè? Sulla mia auto puoi ascoltare i programmi che ami di più con il suono perfetto. Grazie alla digital radio. Ce l'ho anche a casa. Tu no? Se ami la radio, muoviti a provarla in digital, in auto e a casa. Digital radio. Il suono perfetto. DAB Plus. Anche Radio 24 è in digital radio. Radio Tube. E ci ritroviamo insieme dopo una breve pausa per l'ultima mezz'ora del sabato pomeriggio di Radio 24. No, beh, poi il sabato pomeriggio di Radio 24 no, continua, sono io che torno a casa. Tu torni su a lavorare? No, io, certo, lavoro oggi, domani. Su, lo spiego, perché è al Sole 24 su. Ore la radio è il primo piano, sì? Invece Daniele Bellasi occupa il terzo piano un po' più alto. Ah, quindi sì. Poi tu torni a lavorare, hanno bravo. Hanno messo un piano di separazione tra me e te. Poi quello di sicurezza, hanno messo in sicurezza esatto, l'area, l'intercapedine di un piano. Comunque, et Marta Cagnola, et sì. Di Bellasio, in quest'ultima, ho urlato troppo, lo so, ogni tanto scappa, sì. In quest'ultima parte della trasmissione tu ridi e io urlo, sei tu la conduttrice brava. Dopo 3 anni ancora urli nel microfono, lo so, che devo no, perché fare? Lo perché dico agli ascoltatori, timido. Ho fatto un salto indietro sulla sedia, sì, se ne è accorto Daniele. I timidi, per superare la timidezza, ogni tanto devono come slanciarsi oltre la siepe con la voce, va bene. Conduci parliamo tu. Di vai. Cose serie finalmente. No, perché è da un po' che parliamo di televisione, ci sono 2 filoni. Allora, uno che è quello delle novità della prossima stagione, programmi che finiscono, programmi che cominciano, abbiamo parlato già in queste settimane, tanto, dei palinsesti, too much. Un altro filone che è quello più caro a Daniele Bellasio è quello del talk show. No, vabbè, gli perché ascoltatori io lo sanno. Io sto cercando di candidarmi, no? E quindi parliamo sempre... No, scherzo, figurati. Allora, io l'ho detto in altre trasmissioni, sì, che il mio talk show preferito... Sì. L'ho detto, no? Sei no, testimone? L'hai sempre detto. È stato Ballarò, condotto da Massimo Giannini. Era il mio preferito perché intanto si parlava di più di economia rispetto ad altri. Certo. Intanto si mettevano dei punti fermi, a me piacciono molto lì le tabelle dove ci sono i numeri, insomma, lavorando al Sole mi viene un po' facile trovare piacevolezza in quello. E quindi entriamo in atmosfera con questa clip. Vai. Buonasera. Le 6 del mattino e siamo collegati con Ballarò. Attenzione amici di Ballarò, Giannini come stai? Ma chi te l'ha fatto fare, Giannini? Buonasera Emiliano. Buonasera a tutti. Buonasera. Buonasera a voi. Buonasera Puzza. Buonasera a lei. Buonasera a lei. Antonio Padellaro. Vegani siete un po' strani. Ma vedevo che mi guardavi tutto il tempo, perché no, sei No, perché sei vegana. Noi saremo i primi a non chiedergli perché no. È finito, come sta dopo che è finito, no. Che cosa farà, se si sente... No, niente. Non glielo chiederemo, però abbiamo la gioia di avere ospite a RadioTube Massimo Giannini. Buonasera Massimo. Ciao, buonasera a tutti. Ciao. Grazie per avermi invitato piuttosto. Allora, la prima domanda buona è... gioia per me. Stai in vacanza? Come si sta in vacanza? Insomma, in vacanza relativamente, nel senso che ancora ci sono un po' di cose da fare. Devo fare il trasloco, ecco. Devo togliere tutti i libri che avevo nell'ufficio di Ballarò e quindi sarà una cosa impegnativa. Diciamo, nei prossimi giorni quello è il mio obiettivo di corto raggio. Intanto mi dedico a queste cose più materiali. Poi penseremo al resto, a qualche cosa da fare in futuro. Vediamo un po'. Però per adesso mi concentro su quello. È una cosa impegnativa perché, come si dice, il trasloco insieme al lutto e non ricordo più a cos'altro è una delle cose più traumatiche nella vita di una sconfitta, no? In un derby probabilmente. Beh sì, ecco, sì, anche quella sicuramente. Allora, cioè, Daniele Bellasio si è espresso, sì. Ha detto Ballarò sì, è sempre stato il suo preferito. Sì, ma poi dico anche quello che mi piaceva di meno, perché sennò... Però hai sottolineato una delle ragioni principali per la tua preferenza, era il fatto che si occupasse molto di economia. Di economia, il che non è facile. Infatti la domanda curiosità è probabilmente è stata anche la sfida maggiore dal punto di vista tuo personale e professionale. Come mai è così difficile parlare di economia in televisione o perlomeno nella televisione italiana? Ma guarda, tanto Daniele, ovviamente ti ringrazio per il tuo endorsement, sia pure postumo, ormai lo possiamo dire, no? Perché Ballarò non ci sarà più. Detto questo, è difficile parlare di economia. Io ti posso dire questo, io sono arrivato a questa esperienza televisiva dopo 30 anni di carta stampata e... il problema della televisione, se vogliamo, che è al tempo stesso anche la sua forza, è la ipersemplificazione, no? Sì. La velocità. Io che venivo dalla carta stampata, questo l'ho vissuto più come problema che come opportunità, perché mi rendo conto che in televisione andare in profondità delle cose, che in economia è fondamentale, è molto complicato. È molto complicato, perlomeno lo è, in un programma che aveva le caratteristiche di Ballarò, cioè un talk di prima serata con una durata molto, molto lunga e che quindi si portava dietro in maniera direi quasi strutturale la difficoltà invece di prendere un argomento e sviscerarlo in tutti i suoi risvolti, come richiede molto spesso l'argomento economico. Ecco, quindi se vogliamo... Io ho cercato di fare questo sforzo, ben sapendo però che non avrei potuto stressare troppo questo profilo del programma, perché, ripeto, un programma di prima serata, se lo fai tutto di economia e lo fai con l'idea che l'economia sia quella cosa che, per esempio, a me piace molto, che mi leggo sul Sole 24 Ore, no? Dove c'è un tema e dopo aver letto a fondo il Sole 24 Ore ho capito tutto quello che c'è da capire. Ecco, in televisione questo sforzo è molto più complicato. E per quanto riguarda la politica, che bilancio ne fai? Anche perché la politica implica anche il fatto che tu debba avere in televisione degli ospiti politici e quindi sì. La difficoltà anche di scegliere gli ospiti, il cosiddetto panel, le voci da invitare, che bilancio ne fai di questo? Ma guarda, il bilancio è totalmente in chiaroscuro, ma per una ragione molto semplice. Io penso che la crisi dei talk show in realtà non sia altro che la crisi della politica, perché nel momento in cui tu, in quella che Salmon definisce la cerimonia cannibale, devi rappresentare i politici, la politica, il dibattito pubblico, e tutto questo precipita in un momento nel quale questi tre aspetti sono, credo, al minimo storico, nel sangue e nelle vene degli italiani, dell'opinione pubblica, e beh, è chiaro che tu hai delle difficoltà che però sono le stesse difficoltà che ha la politica a farsi capire dai cittadini elettori. Quando vanno a votare meno del 50% degli italiani, è chiaro che tu che fai un programma che quel tipo di dibattito pubblico lo deve rappresentare, soffri in qualche modo della stessa crisi. Quando sei in campo un tema come la riorganizzazione del nostro welfare state, che riguarda quindi sia il sistema previdenziale, sia l'assistenza sanitaria, quando c'è in gioco l'idea che tu debba in qualche modo ripensare alla funzione redistributiva del nostro sistema fiscale e quindi ripensare alla struttura del prelievo, e quindi parli direttamente non più tanto al cuore quanto alle tasche dei cittadini, beh, che cosa c'è di più politico di quello? Certo. Tutto questo naturalmente ci ha poi portato anche, se vogliamo, a tenere, qui vengo alla tua domanda di parterre, no? Tenere sempre un interlocutore politico al quale far riferimento e in qualche caso anche al quale imputare certe responsabilità, no? Certo. Però limitandolo al massimo, perché ecco, questa sì ha veramente stancato, secondo me, il teatrino nel quale hai quello della maggioranza, quello dell'opposizione, hai quello di destra, quello di sinistra che si sbraitano addosso per 3 ore, beh, ecco, quella cosa lì non interessa veramente più a nessuno e noi abbiamo cercato di non farla, mettendogli dall'altra parte o un rappresentante delle parti sociali o molto spesso, e questa è stata secondo me una delle cifre di questi 2 anni di Ballarò, personaggi, se vogliamo, molto noti di altri mondi, mi vengono in mente Antonello Venditti piuttosto che Alessandro Gassman, certo. Ho pensato che cosa mi spingo a dire, anche Pippo Baudo, certo. Che assumevano la posizione dell'italiano medio, del cittadino comune che non ha mai la possibilità di accedere a quei parterre, e facevano loro la parte dell'italiano medio facendo tutte le domande che un qualunque cittadino avrebbe voluto fare in quel momento a un politico su quel determinato argomento, che potevano essere le pensioni, che potevano essere le tasse, che potevano essere le bollette, ecco. E secondo noi questa è una formula che funziona, ripeto, tanto più in una stagione di crisi di legittimazione della politica della quale non si vede ancora la fine, anzi Massimo, soltanto all'inizio. Sì. Ecco, ti chiediamo solo un attimo di pausa perché abbiamo la nostra interruzione per il traffico, importantissimo. Sabato pomeriggio, poi saremo ancora insieme con l'ultimo spicchio di RadioTube, sempre con Massimo Giannini. Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Vi presenta. YouTube. E infine veramente un pensiero a Roma, avevo visto come voi, avevo ancora negli occhi l'immagine della Raggi affacciata al balcone del Campidoglio, una bambolina, mi sono intenerito, la ritrovo un po' bambolina imbambolata. Apprendiamo dalla vicenda della Giunta Comunale di Roma, che è in via di composizione, che i 5 Stelle propongono all'Italia una grande innovazione politica, il web cencelli. La bambolina imbambolata è stata una delle frasi più controverse, la bambolina imbambolata. Renzi si è dissociato, il ministro Boschi si è arrabbiato. Ne sono successe tante. Era per raccontare che a Roma ha un sindaco nuovo, cioè un sindaco donna, un sindaco mamma che apporta una sindaca. Vabbè, ragazzi, che, a me va che bene. Che scelta azzeccatissima, sì. Tutte le a prime me va pagine. A me va benissimo. Ma noi siamo in collegamento con Massimo Giannini. Esatto, al quale abbiamo chiesto tante cose di politica, di economia in merito alla TV. Massimo, io voglio chiederti ancora una cosa sui talk, perché il nuovo direttore di Rai 3, Daria Bignardi, ha detto che per stare al passo coi tempi ci vorranno dei talk più snelli, più veloci e anche più corti, banalmente più corti come più tempo. Corti. Tu, in base alla tua esperienza televisiva, come la vedi questa posizione, questa affermazione, Massimo? Guarda, la vedo benissimo, nel senso che la prima cosa che ho detto a Daria Bignardi quando ci siamo incontrati subito dopo il suo insediamento. Infatti, se posso dire, un aspetto che ci tengo a sottolineare nel momento in cui lascio e ho lasciato Ballarò è proprio questo. Non ho mai difeso il format in quanto tale, ma anzi, come vi dicevo, ho detto subito alla Bignardi, dico, guarda, secondo me non so che cosa avete in testa, non so cosa deciderete, perché parliamo di quasi 4 mesi fa, però ti dico quello che penso io. a mio parere, un talk di 3 ore, noi duriamo 3 ore, c'era quello di Giovanni Floris, mio amico, sulla 7 che ne durava 4, non ha veramente più senso, è quasi una punizione che si infligge al telespettatore, quindi io vedrei assolutamente non opportuno ma necessario ripristinare anche al martedì sera la prima e la seconda serata. Massimo, io siccome prima ho detto appunto che Ballarò a me è sempre piaciuto e tutto il resto, adesso dico una cosa che ha un risvolto anche un po' meno positivo, ma non è proprio la critica. Il racconto di chi sostiene Renzi è: la televisione nei talk show è filogrillina, e il racconto di chi invece non sostiene Renzi è: la televisione nella informazione tradizionale, quindi essenzialmente i telegiornali, è molto conformista pro governo. Secondo me, forse questo problema il talk show effettivamente un po' ce l'ha. Guarda, non so se è possibile generalizzare, quello che tu dici è sicuramente vero. Io parlo per la mia esperienza. Ti devo dire che io ho sempre cercato di non indulgere al dialogo con la pancia, sia degli ospiti sia dei telespettatori, cosa che in altri talk show si fa, insomma, si è fatto. Per esempio Del Debbio fa quel tipo di televisione. Io ho sempre cercato di evitarlo e sono stato molto attento, ripeto, a non indulgere a questo tipo di, anche in questo caso lo chiamo semplificazione per non definirlo più biecamente populismo. Quello che però posso dirti è che capisco, mi rendo conto, perché questo è un po' la dominante della fase, che chiunque in un contesto come quello nel quale ci troviamo tenda, e noi lo abbiamo fatto e io l'ho fatto, a cercare anche un'altra narrazione rispetto a quella molto positivista che Renzi e il governo in generale, questa maggioranza in generale, provano a conculcare nella testa degli italiani. Ecco, chiunque faccia invece un'altra narrazione che cerca di raccontare in presa anche diretta, quindi anche con il rischio talvolta di sembrare un pochino populisti, come stanno in realtà le cose, no? Che forse non sono così rose come il governo le descrive. Ecco, già fare questo sembra quasi, appunto, agli occhi di una certa parte del palazzo e forse anche di una certa parte dell'opinione pubblica, sembra quasi che ti profili come appunto grillino. Certo. In realtà forse c'è qualche cosa di un po' più profondo che va capito e che va ormai al di là del voto populista e antipolitico o di protesta, no? Ecco, allora, però chiarito questo, ripeto, io cerco di scindere da un lato c'è il racconto della realtà così come noi l'abbiamo vista e cercato di raccontare fino adesso, dall'altro lato c'è lo storytelling renziano, che è altra cosa. Fatalmente le due cose entrano un po' in conflitto, ma non posso farci niente. Ce l'ho messa comunque tutta per evitare di non fare un programma becero, ripeto, che parlasse alla pancia delle persone. Ho cercato di parlare un po' più alla testa, esatto, magari non sempre ci sono riuscito. Hai citato Del Debbio, e secondo me invece in quello di Del Debbio c'è un modo di fare la piazza diverso dalla pancia, sì, purissima. Daniele, io sono questo, strano. Questa passione so. Per la piazza di Del Debbio. No, nel senso che, vabbè, insomma, sarebbe lungo e tu mi stai facendo fretta. No, non so, ma pensa a te se mi deve... È affascinante, no, nel senso che la deve sgridare, no, perché in diretta, la mette fuori, Del Debbio la mette fuori e poi fa discutere dentro e cerca di frenare. A me dà un po' fastidio quando la piazza è dentro, nel senso che sta nella costruzione del conduttore regista, non è il tuo caso. Però, per esempio, a me alcune cose di Santoro non piacciono per questa ragione, perché la piazza la provoca dal di dentro, non la mette in scena e poi ne discute nel talk show. Capito. Capisco perfettamente quello che stai dicendo. Sì, è vero, hai ragione. Marta. No, io no, mi chiedo se Massimo Giannini rifarebbe TV. La rifaresti, Massimo? O la rifarà? Magari la rifarò, hai ragione Daniele, magari la rifarò, perché no? No, ma adesso al di là di quello che succederà nel futuro, vi dico in tutta sincerità che è stata un'esperienza molto faticosa. Come ho detto nei saluti finali dell'ultima puntata, ma assolutamente entusiasmante, perché non accorgerti nel momento in cui la fai dell'enorme potenzialità che quel mezzo ha. Ecco. Quindi, e poi aggiungo anche un altro aspetto che per me è stato del tutto nuovo, doppiamente nuovo, perché io come sentivo prima dire a Daniele, anche io sono un timido, però devo dire che fare tre ore fortifica, diretta, fortifica. Di diretta, ecco, insomma, c'è una scarica di adrenalina che anche dal punto di vista personale, psicologico, oltre che professionale, insomma... Neanche quando giocavi nella Roma l'hai provata, neanche a giocare all'Olimpico. No, adesso non esageriamo. No, raccontatemi questa cosa. Quando tocchiamo la Roma siamo su un pianeta... è così, ma davvero ha giocato quasi esoterico, non accostiamo il sacro al profano. Ci è andato vicinissimo, ragazzi, è cronaca questa, ci è andato vicinissimo. Non ci posso credere. Sì, purtroppo parliamo di un'altra era geologica, perché avevo come 16 anni praticamente. La Roma poteva avere due Giannini. Due Giannini. Beh, ragazzi, questa è una rivelazione. Io ero più forte nel, però è andata così, che vuoi fare? Sarà per la prossima vita, magari. Fantastico, fantastico. Grazie a Massimo Giannini. Grazie di cuore a voi, grazie davvero. Ciao. Io lo rivoglio in video, io rivoglio in video Massimo Giannini, mi piacerebbe anche riavere... Sì, perché tu hai una ragione in più per me. È un bel ragazzo, perché è un bell'uomo. Questo fatto che non si può dire, che poi dopo... Vabbè. Grazie a Massimo Giannini, ciao Massimo. Non si vede, ma sono arrossito. Grazie. Vabbè, doveva dirlo, doveva dire i miei segreti. Grazie Massimo. Te l'ho detto. Grazie. Che a Roma una volta il tassista, no? Te l'ho detto. Ti ha preso per... preso per Massimo Giannini. Sono andato due giorni, dico sono bello. Vabbè. Allora, Massimo Giannini e poi rivorrei Andrea Vianello. Questi sono i due che mi piacerebbero in video. Basta, mi me l'ho detto. Chi lo sa. L'ho se detto, Daria ti ascolta, l'ascolta. Salutiamo, ciao Daria. E noi il sabato è finito, il sabato tempo del villaggio è volato. E Radio Cube, che è il figlio minore del sabato del villaggio. O fratello maggiore, non lo so perché è nato cugino, prima. Il cugino. È vero, è nato prima. È nato prima, l'uovo o la gallina, dai. Che c'entra, per dobbiamo salutare, dare appuntamento agli ascoltatori. In regia c'è stato alla fine, adesso alla fine. No, ma adesso dice di no perché non si può dire. No, non possiamo dire. Non possiamo dire che c'è stato un tecnico Mister d'eccezione. Un tecnico d'eccezione, Mister X. In regia. Lanciamo il sondaggio, scoprite non chi. Possiamo dire chi era. Bene. Però c'è sempre stato Cristian Goldoni a darci possiamo una dirlo. Mano possiamo dirlo e noi ci ritroviamo sabato prossimo, senz'altro. Ciao, al prossimo sabato.